Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Mercoledì 24 febbraio, buongiorno di nuovo a tutte e tutte, siete su Liberi Dentro e Duradio e questi sono gli ospiti di oggi. Io sono sempre Caterina Bombarra, scusate a volte non lo dico, che conduco il programma e con me c'è Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno Ignazio. Buongiorno Caterina e buongiorno a tutti e a tutti e buongiorno a Maria Chiara che è con noi. Buongiorno a voi, bentrovati e bentrovate. Grazie. Allora, parto sempre io con la cronaca bianca e oggi vi porto ad Ancona. Leggo da Ancona Today. Ancona, il reinserimento passa per l'agricoltura. Le carceri diventano orti sociali. Perché? L'obiettivo nelle carceri di Ancona è quello di aumentare il numero delle strutture, nelle carceri poi delle Marche, delle strutture coinvolte nei processi agricoli per l'inserimento e lavorativo delle persone detenute. Quindi lo strumento per regolare queste iniziative è il rinnovo del protocollo d'intesa per la riabilitazione e l'inserimento lavorativo dei detenuti in agricoltura tra Regione Marche e provveditoriato dell'amministrazione penitenziaria. Quindi che cosa è successo? Sostanzialmente a Monte Acuto di Ancona ci sono attività legate alla vitivinicoltura con l'impianto di un vigneto, all'orticoltura, poi ad Ascoli Piceno sempre orticoltura e a Pesaro si punterà sul vivaismo. Successivamente sono state sviluppate, sentite qui, anche altre attività agricole su un terreno demaniale di 2 ettari che ha consentito la nascita dell'azienda Barcaglione. Annovera un uliveto da 300 olivi, le cui olive vengono direttamente raccolte e lavorate dai detenuti in un mini frantoio interno per la produzione, e anche di una serra di circa 450 metri quadri che da 2 anni è stata riconvertita per la coltivazione di frutti rossi. E dal 2020 questa azienda Barcaglione ha avviato un allevamento di ovini da latte per la produzione di formaggio. Quindi con questo nuovo protocollo verranno implementate le attività di zootecnica attraverso la realizzazione di un piccolo pollaio anche per l'allevamento di gallino vaiola per la pregiatissima razza autoctona delle Marche. A questo progetto collaboreranno, oltre alla SAM, l'Istituto Zooprofilattico Umbria Marche e la Federazione Regionale Coldiretti. Ma adesso do la parola a te, Ignazio, perché siamo in Tunisia e parliamo di un dibattito abbastanza serio. C'è un dibattito molto, molto acceso in Tunisia per una condanna di 3 ragazzi. Pensate, sembra impossibile, ma così lo riporta il giornale La Presse di Tunisi, condanna a 30 anni di prigione per 3 giovani uomini che hanno fumato uno spinello in un luogo pubblico, in un'area di uno stadio. E c'è una legge, la legge 52, del 1953, che punisce in modo severissimo il consumo di droga, anche appunto la droga, quella che noi diciamo leggera, ecco, il cannabis, le canne. Questi ragazzi hanno preso 5 anni ciascuno per il consumo, 5 anni per la detenzione e 20 anni per aver fatto questo in un luogo pubblico. Sembra una cosa, cioè, esagerata, 30 anni. Infatti c'è stata un'ondata di proteste, i ragazzi ci sono stati poi arresti, anche le famiglie sono intervenute. Ma è interessante perché noi qua diamo le notizie, ma anche per far ragionare, anche per dire, sappiamo tante persone che ci ascoltano dal carcere, vengono dalla Tunisia, quindi le cose le sanno. Le reazioni delle famiglie sono un po' particolari, perché anche le famiglie, le persone che sono state arrestate, nel senso, da una parte dicono è una esagerazione, bisogna cambiare questa legge, non è possibile, ecco, punire uno così come se avesse ucciso una persona, ecco, non c'è proporzione. Dall'altra dicono, ma però vediamo gli effetti sociali della droga, sono molto pesanti, e su questo bisogna riflettere. E anche ricordare che l'Islam è qua, ci fosse una radice anche di questo tipo di severità. Uno dei macro obiettivi della Sharia, della legge islamica, è la difesa dell'aql, cioè della mente. Non si può obnubilare la mente, non si può corrompere la mente. Per questo è anche proibito il vino. Per cui, insomma, in questo senso noi raccogliamo il pochissimo che ci può essere di buono da questa notizia, che è comunque un campanello d'allarme sempre sull'uso delle droghe, chi le usa e anche chi le commercia. Non lo deve fare, specialmente se è un musulmano e la sua sharia lo proibisce in modo formale. Hai fatto bene a ricordare questa notizia, anche perché purtroppo è uno dei reati, quello per il traffico per stupefacenti, per cui molto spesso le persone vengono dichiarate, insomma, colpevoli e scontano il carcere. Quindi certo, attenzione a quello che si fa e anche alle, come dire, le cattive amicizie che ci portano a fare certe scelte, no? Certo, certo. Ma ora facciamo... Ignazio, sì, lanciamo? Dobbiamo presentare il brano? Beh, lo diamo, ecco, per... insomma, per tutte le persone che sono in una situazione di tristezza o di angoscia, di ansia o per una colpa subita, Nabila Mahan, la nostra cantante marocchina, che canta El Ghazal Fatima, la gazzella Fatima. Arhmi ya rahat, l'aql tarhami, min shfahat tal sqami, kif nqa hayor, winti msilya, rufiya El Ghazal Fatima. Arhmi ya rahat, l'aql tarhami, من شفات طالسقامي كيف نبقى حيور وانتي مسليا روفيا الغزال فاطمة عدامي في غراض هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوام بالمرحمة أرحمي يا راحت لعقل ترحامي من شفات طالسقامي. E rieccoci sulle note di Nabila Mahan. Adesso Ignazio, siamo di nuovo con te per parlare di questa grande virtù del perdono. Allora, questo passo oggi del Galateo arabo, che abbiamo detto fin dall'inizio è un Galateo internazionale, e non è che dice, beh, sono gli arabi, sono i musulmani, quindi va bene per loro, ma gli altri non va. Sono cose universali. Allora, sentite, uno degli effetti della capacità di perdonare è la guarigione del cuore. E qua dice questo testo, salamatul qulub, cioè la salama, quindi la pace, e anche la sanità, la salute del cuore, da che cosa? Mina daghina, wal haqd, wal ghil, tre cose terribili, il rancore, l'astio e l'odio. Wa mashar al-intiqam sono i pensieri di vendetta. Questa è una cosa terribile. Ce l'abbiamo in carcere, ce l'abbiamo fuori del carcere, che uno cova la vendetta dentro di sé e la consuma. Magari non la realizzerà mai, però nel suo cuore è avvelenato da questo bisogno di vendetta. Allora l'afu, riprendo la bellissima immagine che ha detto Maria Chiara, è come quest'acqua fresca che passa sul cuore e toglie via questa crosta che è l'odio, il rancore, e lascia un cuore bello, pulito, sereno. Grazie Ignazio, e ora siamo sempre con la nostra ospite Maria Chiara Gallo. Abbiamo parlato in inizio di puntata di attività risocializzanti, ho parlato dell'agricoltura e di tutte le attività legate al territorio, al terreno. E però la domanda è, anche il canto può essere un'attività risocializzante? Assolutamente sì, può essere socializzante e risocializzante, secondo me. Per quanto mi riguarda, la maggior parte dei miei amici, delle amicizie più care e più durature, sono proprio i colleghi del canto, dunque i miei amici coristi e solisti. Dunque sono, nonostante per me poi sia difficile gestire queste amicizie, perché parlo di persone che abitano davvero in tutto il mondo, dunque non è facile mantenere i contatti, ma sono tuttora le persone che ho più care al mondo. Ed è assolutamente un'attività, sì, che se parliamo anche delle realtà del carcere, sarebbe auspicabile fare sia dentro che poi una volta usciti, anche per darsi una disciplina, per trovare un momento di incontro, per trovare un momento di sfogo, assolutamente, per costruire qualcosa insieme e per mettere insieme personalità totalmente diverse, abilità totalmente diverse. Magari uno ha una voce più potente, l'altro ha una voce più sottile, una persona è più predisposta a essere protagonista, a fare il solista di un gruppo. Magari un ragazzo ha una voce molto grave, può fare come da fondamenta del coro, e invece una ragazza ha una voce molto acuta e può riuscire in una melodia laddove altri non riescono. Ma non è solo questo, è veramente un'attività che in senso buono costringe ad ascoltare gli altri, a costruire passo dopo passo una relazione. Anche non sempre facilissima, perché chiaramente il coro è come uno specchio della società in generale, dunque dentro c'è di tutto, nelle cose facili, nelle cose difficili, nelle relazioni facili, nelle relazioni meno facili, ma è assolutamente un balsamo sociale, qualcosa che, anzi, dopo il periodo del Covid sarebbe auspicabile pensare anche per le detenute e i detenuti. Secondo me sarebbe molto divertente. So di realtà aspettano, già esistenti. Ti aspettano. Sì, so di realtà ti già esistenti. E io stessa col conservatorio ho fatto a Reggio Emilia all'OPG anni fa dei laboratori e dei concerti 2 o 3 volte l'anno. Una bellissima esperienza, per cui da consigliare dentro e fuori, assolutamente. Grazie, perché mi hai dato lo spunto per chiedertelo domani, quindi resta con noi anche domani. D'accordo. E adesso lancio un brano musicale, Gian Maria Testa, Povero Tempo Nostro. Povero tempo nostro, povere fatiche, povera la terra intera che tutte intere le patisce. Povero tempo nostro e poveri questi giorni di magra umanità che passa i giorni e li sfinisce. Lascia che torni il vento e con il vento la tempesta, e fa che non sia per sempre questo tempo che ci resta. Lascia che torni il vento e dentro al vento la stagione di quando tutto appassirà per chi bestemmia le parole. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro. Oggi siamo con una nuova ospite in diretta da Torino, la città in cui lavora. Lei è Antonella De Francesco. Buongiorno e benvenuta su Liberi Dentro. Buongiorno. E tu sei per l'appunto specialista in scienza dell'alimentazione e lavori a Torino. E con te l'obiettivo di queste chiacchierate che faremo è quello di fare informazione, un po' di counseling per chi ci ascolta tra la città e il carcere, i nostri ascoltatori, e per instradarci un po' su quello che è uno stile di vita sano, corretto, a partire da noi, dall'autoconsapevolezza, da quello che tu ci puoi un po' consigliare. Faccio una premessa. Allora, diciamo che il diritto al cibo non è un diritto esplicitamente concretizzato nella nostra carta costituzionale, però nel nostro ordinamento penitenziario, all'articolo 9, c'è scritto, relativo all'alimentazione, c'è scritto che ai detenuti deve essere assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione e al clima. Quindi tante caratteristiche, quindi la dieta dipende da tante tante cose e in più aggiungo che rispetto sempre al carcere, per chi non lo sa, i nostri ascoltatori appunto tra la città e il carcere, che nel carcere c'è una cucina interna oppure una dispensa che porta i cibi dall'esterno per i detenuti 3 volte al giorno, oppure c'è la possibilità, il cosiddetto sopravvitto, di accedere a una lista della spesa pre-organizzata, per dire, e cucinarsi cibi da soli. Quindi la prima domanda che volevo farti è chiarirci un po' il concetto di dieta e le implicazioni sul nostro benessere psicofisico. Va bene, buongiorno a tutti. Allora, il concetto di dieta si è modificato abbastanza nel tempo. Una volta la dieta, se proprio andiamo a cercare le definizioni più vecchie, era considerata l'astinenza dai cibi, da certi cibi, per motivi di salute. Quindi io sono malato di qualcosa e mi viene prescritta la dieta opportuna in relazione alla mia malattia. E questo è ancora, no? Nei pazienti che possono avere problemi renali, problemi epatici, problemi digestivi, e se esiste una dieta specifica, perché non sarebbe neanche il caso che esistesse una specialità in scienze dell'alimentazione, se potessimo generalizzare con la dieta sana per tutti. Più recentemente il concetto di dieta si è allargato e si considera la dieta più salutare come uno stile di vita che agisce sulla scelta dei cibi, sulla modalità di cucinare, sui comportamenti, e si è molto ampliato, nel senso che scelta degli alimenti e delle modalità a questa scelta degli alimenti e delle modalità di cucinazione si aggiungono anche consigli sulla regolare attività fisica, sulla non sedentarietà. E quindi un comportamento che dovrebbe iniziare in realtà fino dall'infanzia. Ancora c'è stato un successivo passaggio, l'alimentazione più salubre non solo per l'uomo, ma solo per il pianeta, perché la numerosità degli abitanti del pianeta lo rende estremamente fragile. Noi lo sfruttiamo per poterci alimentare, lo riempiamo di ciò che sono i nostri scarti, e quindi il pensare a un governo dell'alimentazione significa anche pensare a un governo del pianeta. Chiarissimo. Quindi, questi sono i tre passaggi del concetto di dieta. Siamo quasi giunti al nostro stacco musicale. Ti chiedo brevemente, incisivamente, proprio quali sono le implicazioni di una buona dieta sul nostro benessere, ti dicevo, psicofisico. Allora, innanzitutto, visto che si usa tantissimo parlare di epidemie, partiamo da quella che è l'epidemia peggiore nel mondo, che è l'epidemia delle patologie cardiovascolari, del diabete, che sono assolutamente collegate all'obesità e alle cattive abitudini alimentari, non solo nelle civiltà sviluppate, considerate ricche, come quella dell'America del Nord o come quella europea, ma anche nelle civiltà degli altri continenti, come l'Africa, l'Asia, l'America del Sud. L'incremento dell'obesità anche in popolazioni che era estremamente magre ha portato a una mortalità molto alta. Muoiono 1 milione di persone all'anno per patologie collegate al sovrappeso e all'obesità. Ci sono 12 milioni di malati all'anno per questo tipo di patologia. Quindi certamente la salute fisica, psichica è estremamente importante, va raggiunta con un'alimentazione, diciamo, corretta, perché è estremamente importante per la sopravvivenza e la guarigione da queste patologie, che sono quelle che incidono di più sulla salute. Grazie Antonella, lanciamo la nostra primo brano musicale di oggi con te, ed è 7000 caffè di Alex Britti. Caffè, li ho già presi perché Sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te, che aspetti me nel castello lassù, con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè è l'effetto che ho quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò vieni verso di me e io pazzo di te. In un attimo ci diamo il bacio più dolce che c'è. Ho bisogno di te perché sei bella, e poi ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te. Rieccoci sulle note di Alex Britti, 7000 caffè. Siamo qui con Antonella De Francesco e volevo chiederti, Antonella, allora, che cos'è una piramide alimentare? Allora, la piramide alimentare è uno schema che dà i consigli su quella che dovrebbe essere la corretta alimentazione, mettendo alla base della piramide gli alimenti che devono essere consumati maggiormente, compresa l'acqua, e man mano che arriviamo verso la punta della piramide, gli alimenti che devono essere assunti in quantità minore. Questa è la piramide alimentare ed è proprio data dalla necessità di dare degli indirizzi in un momento di totale confusione, in cui si sono create anche tanti stili un po' stravaganti, cioè il vegetarianismo, i fruttariani, i macrobiotici, eccetera, eccetera, per cui è venuto fuori, studiamo uno schema che possa dare delle indicazioni salutari. La piramide alimentare, che sulla base di studi scientifici assolutamente seri, sembra essere la più utile, la più consigliabile, è quella mediterranea, è la piramide alimentare mediterranea. Bene. Alla base della piramide alimentare mediterranea è stato però aggiunto l'attività fisica e anche altri consigli importanti. Quindi se volessimo dare ai nostri ascoltatori tre consigli di base per cominciare con una dieta, nel senso di uno stile di vita alimentare corretto e sano. Allora, per fare questo aggiungerò a qualche consiglio della piramide alimentare mediterranea altri consigli di altre piramidi, per esempio quella nordica. Allora, prima di tutto cucinare molto in casa, cioè cercare di evitare gli alimenti pronti, che comunque sono ricchi di addensanti, di additivi, sono molto allettanti, molto saporiti, perché sono ricchi di grassi, ricchi di zuccheri. E quindi cercare di preparare gli alimenti da soli, partendo da quello che dai vegetali, dalle carni, dal latte, dai latticini, però cucinare in casa, diciamo, preferire i grassi vegetali ai grassi animali, assolutamente, e abbassare il contenuto di zuccheri dell'alimentazione. Innanzitutto il contenuto di zucchero come tale, e poi di tutti gli alimenti che contengono lo zucchero, cioè i dolci, i gelati e via dicendo. Cercare di consumare all'interno delle carni, soprattutto, prima di tutto il pesce, poi la carne bianca, per ultimo la carne rossa e per ultimissimo le carni lavorate, cioè gli affettati, appunto, che sono comunque anche molto ricchi di sale, quindi controindicati in patologie molto diffuse come l'ipertensione e così via. Poi altri consigli che sono presenti in altre piramidi: cercare di mangiare gli alimenti stagionali e quindi di variare l'alimentazione, perché se qualche alimento è dannoso, ma viene comunque sostituito da altri alimenti, se l'alimentazione varia, noi non ci riforniamo di un solo danno, diciamo, abbassiamo il danno che ci viene da quell'alimento. Quindi questo è estremamente importante. Questi sono i consigli più importanti della piramide. Per partire. Grazie, Antonella. Ritorneremo con te la prossima volta, se hai piacere di essere con noi su Liberi Dentro. E adesso l'ultimo brano musicale di oggi è Marmellata, va bene, abbiamo parlato di non dolci, ma magari si può fare anche in casa, ed è un brano di Cesare Cremonini. A presto e alla prossima! Marmellata. sono le tue scarpe ancora qua, ma tu te ne sei già andata. C'è ancora la tua parte di soldi in banca, ma tu non ci sei più. C'è ancora la tua patente rosa tutta stropicciata, e nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu. L'ho fumata. Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata. C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu. Ci sono le tue carte, il tuo profumo ancora in questa casa, è proprio lì dove ti ho immaginata. Scarpe ancora qua, ma tu non sei passata. Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più. Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata. E rieccovi, ben ritrovati. Abbiamo appena ascoltato la nostra esperta della salute alimentare, Antonella De Francesco, che riascolteremo anche nelle prossime puntate per approfondire la salute e l'alimentazione anche quando si è in carcere, ma anche fuori. E il nostro invito è sempre quello di scriverci a liberidentro.duradio@gmail.com oppure all'indirizzo postale Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna. Stiamo già ricevendo delle vostre lettere, quindi siamo contenti. E oggi pomeriggio l'appuntamento è alle 17 su Teletricolore, canale 636, con l'equipe sanitaria del carcere, la nostra Agnese Drusiani. A presto, a domani.